Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Cari ascoltatori di Radio 24, buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento speciale di Voci d'impresa. Oggi vi raccontiamo una storia che si lega a quella della storia dell'Unità d'Italia. Pensate, un'azienda del sud, un'azienda calabrese, che racconta la sua vicenda attraverso tanti, tanti anni di storia. 10 dipendenti a Soveria Mannelli, un comune di 3.200 abitanti in provincia di Catanzaro, un comune con vista sulla Sila, lungo quella statale della Calabria che è stata teatro delle ultime battaglie di Garibaldi sulla via di Napoli, pensate un po'. Ed è proprio in quel tempo lontanissimo, anche attuale oggi, tempo di formazione della nazione italiana, che prende forma la storia di una piccola impresa familiare che oggi rappresenta un gioiello culturale che vi voglio invitare a conoscere. Ci aiuta a farlo Emilio Salvatore Leo, architetto, designer, classe 1974, nato un giorno in cui nevicava molto, leggo nella biografia, perché in quella parte d'Italia può nevicare molto. Può nevicare tantissimo e quindi ci accomuna anche geologicamente alle Alpi. Tra l'altro questo è un pezzo di Alpi scivolate un po' più a sud. Qui nasce appunto il racconto di un'azienda familiare, di una famiglia che da 4 generazioni è dedita all'industria tessile, un'azienda che è nata nel 1873, quando nasce appunto quello che è il primo lanificio calabrese. Allora Emilio Leo, le chiedo di raccontarci, di introdurci al lanificio Leo, di cosa si tratta? Di questi tempi mi verrebbe da dire che è una storia di resistenza, ma è anche molto, molto di più, cioè è la dimostrazione che alla fine un sogno può diventare realtà e può durare anche molto tempo se si ha la capacità di dare spazio anche alla trasformazione. E questa azienda è un po' l'emblema di questo, diciamo, è nata con una radice fortissima e un legame fortissimo con il territorio, con la lana, le pecore, l'identità rurale, e nel corso, diciamo, di più di un secolo di cammino, oggi è un po' una sorta di transgender, diciamo, un luogo in cui cultura, impresa, design tentano di costruire una sintesi e di indicare una via probabile per un futuro del manifatturiero, soprattutto del tessile. Tutto questo naturalmente nel profondo sud dell'Italia, l'ha detto all'inizio con questa bella espressione, una parte di Alpi scivolata nel centro del Mediterraneo, una storia che naturalmente non può essere raccontata senza sentire la voce di un signore che è nato 52 anni prima di lei, che è suo padre, e che lo sentiamo subito, Peppino Leo. La prima fase fu quella di mio nonno. E venne impiantata a Carlopoli, perché mio padre era da Carlopoli, no? E siccome lì era tutta una famiglia di mangiani, vedendo queste donne che dovevano filare questa lana proprio come usciva dalla tosatura, allora venne l'idea di mettere queste prime macchinette, che all'epoca la prima forza motrice era quella animale. Girando dei muri facevo girare una ruota grande, ruota di 5 metri di diametro, e portavano avanti queste macchinette. Ma poi subito dopo, diciamo dopo 4, 5, 6 anni, non ricordo bene, si passò a Valle del Coraggio e si sfruttò l'acqua. Solo nel 1933 Soveria era dotata di forza motrice elettrica e mio padre spostò il tutto a Soveria. Ecco, perché c'era l'elettricità. Ecco, l'elettricità. Dunque, lei è nato nell'anno? 1922. Era fascista, si doveva scrivere. Assolutamente. Quindi fu una fortuna, perché io, diciamo, avevo l'interesse di impararmi qualche cosa da piccolo, da 5 anni. E piuttosto magari cercavo di salare la scuola, che mio padre a forza mi portava poi a scuola. Salare, si dice. E allora che cosa si faceva? Io avevo un fratello ancora più grande, di 2 anni. Lui era interessato allo studio più di me. E quindi, e finite le scuole, diciamo, elementari, mio fratello continuò a studiare e si diplomò proprio nell'anno che si è perso mio padre, il 42. La fortuna fu anche quella che io, avendo avuto l'idea di stare sempre sotto queste macchine, a già 18-19 anni io conoscevo tutto e quindi si andò anche avanti. Peppino Leo, all'alba dei 90 anni, se vi capitasse di passare per Soveria Mannelli, probabilmente lo trovereste, come l'ho incontrato io, a lavorare intorno alle sue macchine che monta, smonta e che cosa straordinaria, poi mette in movimento con un orgoglio formidabile per farle letteralmente suonare. Allora, architetto Leo, queste macchine perché sono centrali in una vicenda imprenditoriale? Macchine così vecchie, dopo tutto. Sono centrali perché sono state il motivo reale per cui è stato possibile scrivere, come dire, questo secondo capitolo della storia Vanificio Leo, nel senso che il patrimonio industriale è stata la scintilla per cui in un contesto anche molto sfavorevole si sono costruite delle condizioni per ricostruire una storia aziendale. Condizioni che vi hanno anche portato a dei riconoscimenti. Su questo tronco si è innestata poi il suo desiderio, la sua vocazione per il design. D'altra parte lei si è definito un architetto per vocazione, ma imprenditore per destino. Insomma, come si arriva da Soveria Mannelli ai riconoscimenti del Guggenheim Museum di New York? Beh, in effetti la dimensione del progetto è centrale per tutto il discorso del manifatturiero contemporaneo. Non abbiamo più bisogno di merci, ma di merci con significato, di merci che ricostruiscono connessioni con i territori, con le identità locali. Quindi è importantissimo capire dove si è, ma è molto più importante capire dove si orienta lo sguardo. Paradossalmente questa storia un po' esotica a sud, in un momento anche storico come questo, in cui l'unità nazionale ritorna come elemento di ragionamento, forse le identità locali possono essere nuovamente il sale per costruire l'unità. Ecco, io ho citato il Guggenheim, lei molto, diciamo, modestamente ha raccontato dell'unità, ma perché ho citato il Guggenheim? È stato un riconoscimento importante che vi ha portato in vista. Diciamo, la molla che ci ha dato la consapevolezza che in quel momento storico, da sud e dalla periferia, noi eravamo in qualche misura, diciamo, allineati su un modello innovativo, che è, secondo me, diciamo, il segreto forse per la costruzione dei futuri possibili di questa nazione, piuttosto che arrovellarsi sempre nella applicazione di modelli desueti. Dovremmo avere il coraggio di guardare e di immaginare modelli e strade che non sono mai state battute. Ecco, architetto, queste sono le ragioni per cui a Soveria Mannelli di tanto in tanto si arriva veramente dal mondo, dall'Olanda, ai designer europei. Insomma, avete costruito una rete di relazioni culturali che va ben oltre la produzione tessile. Sì, il tessile è il nostro core business. Ma in qualche misura ci interessa sempre questa dimensione del progetto, ci interessa la dimensione della qualità delle idee, e le idee naturalmente non hanno confini, quindi più reti, più relazioni, più circuitazione di persone, anche fisicamente, da territori a territori, non può far altro che arricchire un mosaico anche della missione. Ecco, siamo verso la conclusione. Abbiamo parlato e ci ha raccontato quando in qualche modo questo essere ai piedi della grande montagna Silana produca anche dei vantaggi. Però ci dica, qual è la complessità di essere in una zona così periferica dell'Italia? Ma la complessità, diciamo, è un po' la stessa che probabilmente c'era 130 anni fa, quando il mio bisnonno pensò di attivare, che è la sensazione dell'isolamento, comunque della periferia. Oggi paradossalmente questa condizione forse diventa un vantaggio di leggerezza, un vantaggio di competitività, perché chi è più leggero forse può costruire un futuro migliore senza dover avere il fardello di dover riconvertire grossi apparati. Torniamo a sentire suo padre, dunque Peppino Leo, che ci racconta anche attraverso un racconto che ha a che fare con le pecore, dunque la materia prima del vostro lavoro, la trasformazione che, per chi non è, diciamo, dei settori specifici, avviene in maniera invisibile. Invece sono scelte e decisioni che cambiano le cose. Ecco, io ho sempre la bocca un po' lunga per questi nostri governanti. che non hanno mai visto niente e non vedono niente. Voi pensate che noi fino all'85 avevamo la migliore razza di pecora, la Merino in Calabria, e quindi c'erano centinaia di quintali di lana che si producevano, e parte, diciamo, più o meno che assomigliava alla Merino era il Lazio. Tutte queste centinaia di migliaia di pecore sono andate a finire al macello, perché la Sardegna tra l'80 e l'85 ha prodotto una pecora che produce il doppio di latte. E quindi tutti i mandriani, giustamente, se incassavano 10 lire di latte, ne incassano 30, non contribuiscono alla perdita dei 3 kg di lana che produce una pecora. E adesso da dove arriva la materia prima? Ecco, adesso deve arrivare dall'Australia, perché solo in Australia è rimasta la lana. E l'Australia va a finire nei container con 300-400 quintali per volta al porto di Gioia Tauro. Da Gioia Tauro va a finire ai grossisti a Biella, e poi da Biella in piccoli quantitativi scende a noi. Ecco, il viaggio della lana raccontato da Peppino Leo, lo ricordo, classe 1922. Architetto Emilio Leo, in conclusione, allora lei ha parlato di resistenza in qualche modo industriale e culturale con la vostra attività. E nel futuro che cosa c'è dunque? Nel futuro spero ci sia un'azienda che possa essere percepita come un'azienda normale. In un certo senso quello che noi tentiamo quotidianamente di fare, insieme a tantissime altre aziende, altre persone, altre menti che in questo sud brulicano, è quello di costruire una normalità dove ci può essere produzione con un significato, produzione sostenibile. Sostenibile significa tante cose dal mio punto di vista, significa essere consapevoli di vivere in un territorio e di dover costruire valore immateriale anche per la comunità di riferimento, contribuire ad innalzare il ragionamento sulle merci e sul significato intorno alle merci, ritornare a ricucire questo strappo che la rivoluzione industriale in qualche misura ha connaturato tra produzione e consumo. E quindi tentare di dare a mia figlia, perché io adesso da 2 anni sono papà, un mondo sicuramente migliore. Alla quinta generazione dunque, grazie all'architetto Emilio Leo, buon lavoro, in bocca al lupo, grazie di essere stati con noi. Grazie mille. E di averci raccontato appunto questa bella avventura. Vi ricordo, su Google Lanificio Leo trovate storie e racconti, e magari trovate soprattutto lo spunto per andare a visitare una bellissima parte d'Italia, un'avventura imprenditoriale, umana e culturale che merita di essere approfondita. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.